Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. La mail, la ricordo, un abuso al giorno, @radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog sulla prima pagina online del Sole 24 Ore. Si chiama Guardie o Ladri, potete raggiungerlo anche attraverso qualunque motore di ricerca. Allora, la cronaca di Firenze ci offre un caso che non è, ahimè, limitato soltanto a quella città e alla Toscana, ma è accaduto, accade e accadrà diverse volte in giro per l'Italia, vale a dire amministratori di condominio denunciati ai carabinieri per truffe perpetrate nei confronti dei condomini. In questo caso si tratta oltretutto di un amministratore che amministra la bellezza di circa 700 famiglie che di punto in bianco ha fatto sparire il fondo riserva per circa 55.000 euro, ha prosciugato il proprio conto in banca e ha lasciato le famiglie nei guai, a maggior ragione perché non erano state anche pagate delle bollette ai fornitori, tanto che il fornitore di energia elettrica ha già presentato una bolletta che, dire salata, dir poco, perché sono 18.000 euro. Ed allora noi ne parliamo di questo caso, che prendiamo ovviamente come esempio per chissà quanti altri casi in Italia. Ne parliamo con Aldo Rossi, che è il responsabile dell'ufficio legislativo di Apus Unia, vale a dire l'associazione tra proprietari e utenti. Buongiorno Rossi. Buongiorno a voi. E con Pietro Membri, che è il presidente dell'ANACI, che è l'associazione nazionale degli amministratori di condominio. Buongiorno Membri. Buongiorno. Allora Rossi, io direi di partire da lei. Questo episodio fiorentino che la Nazione del 25 di febbraio ci porta alla luce è un caso, a suo giudizio, eccezionale, solito, insolito? Come lo giudica innanzitutto? Ma qui siamo indubbiamente in un caso di reato penale che ritengo comunque eccezionale, nel senso che non dobbiamo né possiamo pensare che sia ricorrente la fuga con la cassa in maniera così eclatante in casi, perché altrimenti facciamo dell'allarmismo. È indubbio che noi poniamo un problema serio, e l'abbiamo affrontato anche insieme alla NACI, insieme alle altre associazioni, di garanzie che possano essere date dal ruolo dell'amministratore, che non sono solo le tradizionali garanzie della fiducia, della conoscenza, ma che debbono trovare anche delle regole ben precise, per esempio nella redazione e nel controllo sul bilancio. Noi abbiamo, proprio come associazioni, stipulato nel 2007 un accordo che ha portato ad uno schema di bilancio univoco. C'è da dire in premessa che il Codice Civile non prevede uno schema particolare di bilancio per i condomini come prevede per le società, quindi si va un po' così all'impronta. Noi abbiamo invece indicato quello che è le regole di un bilancio, e per esempio dico, per non dilungarmi, che all'interno delle regole abbiamo posto con forza il problema di una verifica attenta della situazione di cassa e del conto corrente condominiale. Per esempio, se fossero stati esercitati nell'ambito di quel condominio lì, forse non avrebbero avuto le sorprese che hanno avuto i signori condomini. Adesso sto parlando di un accordo associativo. È ovvio che poi noi invece, come associazione che sta dall'altra parte, diciamo, noi siamo in piena collaborazione con gli amministratori, ma non siamo amministratori, e quindi riteniamo che al di là degli amministratori che possono avere una loro associazione, ai cittadini che si rivolgono a noi diamo alcune indicazioni, per esempio anche quella di inserire una clausola di garanzia fideiussoria, specie laddove la gestione punta su un budget, è costretta su un budget che è abbastanza elevato. Ecco, io la fermerei un attimo Rossi per passare la parola a Membri, che rappresenta appunto gli amministratori di condominio, essendone il presidente nazionale. Allora Membri, faccio a lei la stessa domanda: caso eccezionale oppure la sfiducia può essere incrinata tra chi amministra e chi viene amministrato? No, questo direi che è un caso eccezionale, però il fenomeno c'è. Pertanto la NACI il 13 di febbraio ha presentato una proposta di legge di iniziativa popolare per l'istituzione di un registro degli amministratori immobiliari. Ecco, questo mi sembra molto interessante. Quindi, tre soli articoli. Quindi non esiste oggigiorno un registro degli amministratori di condominio? Nessuno, basta avere i diritti civili e tutta la gente può fare l'amministratore. Ecco, è un fenomeno solo italiano. Ecco, sta aggiungendo degli elementi davvero interessanti. Diceva tre soli articoli questo progetto di legge. Cioè, l'istituzione del registro, sì, che si sarà esercitata tra vigilanza del Ministero della Grazia e Giustizia, il registro degli amministratori su base poi provinciale e l'amministratore, nel momento in cui assume l'incarico da parte dell'assemblea, dovrà presentare idonee garanzie a tutti gli capitali gestiti. Membi, le chiedo questo, come lei sa probabilmente molto meglio di me, progetti di legge, disegni di legge, ce ne sono tantissimi, poi il 90% probabilmente, forse anche più, si arena nelle aule parlamentari e non trova uno sbocco legislativo. Concretamente e seriamente, perché il caso mi sembra comunque molto interessante quello che dovrebbe portare all'istituzione di un registro, ecco, concretamente quante possibilità ci sono di vedere entro la fine della legislatura un albo che dia un po' più di garanzia non soltanto a chi viene amministrato, direi innanzitutto, ma anche alla serietà di chi si propone come amministratore di un condominio? Ma le dirò che questa diciamo, proposta è semplificata perché nell'articolo 1129 del Codice Civile e il 1138 sono già ricomprese le figure, è già ricompresa la figura dell'amministratore, cioè quando sono più di quattro appartamenti occorre l'amministratore, è l'unica professione, è l'unico settore dove dice che occorre l'amministratore, una persona professionale per amministrare, no? Sì. Allora, il 129 dice che è istituito il registro presso la proprietà edilizia. Solo che la proprietà edilizia è del 44, cioè è un istituto che è ormai soppresso, che era stato istituito dal Regio Decreto dall'era diciamo, il ventennio, e poi non si è mai pensato di trovare una collocazione di questi adempimenti. Ecco. C'è stato solo di fare una modifica al 1929 e al 1938, che prevedono già l'istituzione del registro e dell'amministratore. Ecco, effettivamente i rapporti tra amministratori e condomini ha bisogno di una ripassata e ha bisogno di essere reso più attuale, e chiedo dunque a Daldo Rossi, responsabile appunto dell'ufficio legislativo dell'associazione che riunisce proprietari e utenti APU Sunia. Allora, Rossi, leggendo la cronaca della Nazione di Firenze, ad un certo punto credo che chiunque di noi avrebbe dichiarato la stessa cosa, un rappresentante delle famiglie ha detto: siamo stati ingenui, non faceva neppure le assemblee di condominio il nostro amministratore. Insomma, c'è qualche, come dire, avvertimento che i condomini devono essere in grado di cogliere, a suo giudizio, per capire, per carità, non che l'amministratore si stia comportando in maniera sleale, ma che però potrebbe anche farlo? Rispondo molto brevemente. Noi certamente c'è la necessità di una riforma normativa. Condivido quello che si diceva prima, anche se la forma del registro poi è da approfondire, perché non credo che si possa creare un albo degli amministratori come se si trattasse delle professioni che sono legale o medica, perché qui abbiamo dei problemi anche con la Comunità Europea. Certamente un registro, una classificazione può essere opportuna, non è però l'unica garanzia, quindi condivido che nel progetto ANACI si parli anche di garanzie specifiche che l'amministratore nel momento in cui assume la carica debba certo prendere, perché peraltro anche i medici o gli avvocati che sono iscritti ad Albi spesso lasciano a desiderare, o gli stessi notai in rapporto all'utenza, certo, insomma, no? Diciamo, certo. Voglio dire, cerchiamo anche di non è l'albo di per sé che garantisce questo, non è certamente una panacea, ma è un aiuto. Fatta questa premessa, c'è un problema di garanzie. Noi quotidianamente affrontiamo il problema dell'utente che si lamenta dell'amministratore, diciamo così, che si lamenta della gestione. Devo dire che c'è anche una sorta di pigrizia, diciamo, partecipativa da parte degli utenti. E questo è verissimo, effettivamente. Noi per esempio abbiamo istituito, ci sono tanti corsi per amministratori condominiali in giro per l'Italia. Noi abbiamo, io ho predisposto pure un opuscolo a mia firma dell'architetto Cafiero Domeghi e dell'APU di Roma. Abbiamo tenuto per ben 6 anni a Roma, fino all'anno scorso, adesso seguiamo a farli a Roma, a Milano e nelle grandi città, corsi per consigliere di condominio. Bene, io la interrompo qui, Rossi, perché il tempo a nostra disposizione è scaduto. Ovviamente non sarà l'ultima volta che vi avremo nostri ospiti, perché torneremo a parlarne. Grazie intanto. Lo stesso grazie dico a Giorgio Mattei in regia e a Laura Fagini in studio, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.